Letture di Radio 24. Nuotare contro Corano comporta il rischio di annegamento, scrive Hamid Zanaz nel suo libro Sfida laica all'Islam, un manifesto contro l'estremismo islamico che lo scrittore algerino considera come il vero malato del mondo contemporaneo. I musulmani faticano ad ammettere che l'Islam non è più una civiltà. Oggi è solo un insieme di valori che offre risposte ai problemi esistenziali, ma non dà alcuna risposta ai problemi storici e congiunturali. Oggi è una periferia del mondo moderno, che nutre risentimento nei confronti dell'Occidente, o quantomeno un'inquietudine mescolata all'invidia. Ma evocare addirittura uno scontro di civiltà significa abdicare al senso delle parole. Questa opposizione tra Occidente e Islam corrode l'immaginario musulmano. È solamente un'illusione, perpetuata per calmare le coscienze infelici, annichilite dal terribile shock che per loro è stata la modernità. I depositari ultimi della parola di Allah non riescono a digerire la loro stasi e la loro impotenza di fronte a un Occidente infedele, che non smette di realizzare progressi eclatanti in tutti gli ambiti. Fare dell'Islam un'alternativa all'Occidente è il peggiore infantilismo possibile. Le vie che conducono alla modernità non sono numerose, e l'Occidente non è un agglomerato culturale qualsiasi, o un territorio informe. È il luogo nel quale si è manifestato lo spirito dell'illuminismo. Per legittimare il proprio fallimento, le élite accusano sistematicamente l'Occidente. In questo modo, le fasce inferiori delle popolazioni musulmane proiettano e annegano le loro frustrazioni in un'ostilità patologica nei confronti dei valori mentali e simbolici della modernità. Valori chiamati confusamente occidentali, giudicati non solo incompatibili con le tradizioni islamiche, ma anche impegnati in una crociata permanente contro tutto ciò che è musulmano. Occidente versus Islam. Con questa formula, quelle élite vogliono alimentare una contrapposizione insormontabile fra la modernità e il mondo arabo musulmano. La propensione culturale in terra islamica è quella di creare un Occidente monolitico sempre attento a complottare contro l'Islam. Nessun relativismo culturale può giustificare l'idea che la democrazia, i diritti dell'uomo, l'umanità della donna siano valori esclusivamente occidentali. Non ci sono diritti dell'uomo senegalesi o inglesi. Ci sono solo i diritti dell'uomo. Per quale ragione i musulmani adottano con facilità l'ultima generazione di cellulari, che consente l'interattività e la mobilità, e invece faticano ad assumere la prima generazione dei diritti umani? Perché in questi paesi in cui vigono i doveri dell'uomo, si lavora giorno e notte per rendere eterno il dispotismo. I diritti di Allah vengono prima dei diritti dell'uomo, perché vanno a esclusivo beneficio dei despoti e avvantaggiano gli uomini rispetto alle donne. In questi paesi, descritti da bei libri che esibiscono foto magnifiche, la libertà umana non vale granché. Per la maggior parte, i musulmani preferiscono un passato che si inventano, a un presente che li sfida e soprattutto a un futuro che li spaventa. Incapaci di creare un altro modello culturale, si crogiolano nella nostalgia del passato. Con l'accumularsi delle difficoltà, questo passato diventa un bisogno vitale, un mezzo per sfuggire alla realtà, uno sfogo per l'anima tormentata dalle frustrazioni del presente, il bisogno appagante di appartenere a una civiltà che ha dominato. Ma non sarebbe ora di uscire dallo spirito delle crociate, di abbandonare la psicologia revanchista? Peraltro, la rappresentazione iconica di questo passato raramente corrisponde alla realtà oggettiva della storia, ma come una sorta di compensazione, l'immagine idilliaca di questo passato si è incisa nell'immaginario delle masse frustrate. Il passato è così diventato una promessa e le leggende sono diventate più vere della storia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Hamid Zanaz, Sfida laica all'Islam, la religione contro la vita. Eleutera, 168 pagine, 13 euro.